sono sui social network da molti anni, insomma, da quando è nato Facebook e da quando è nato Twitter, e li uso personalmente, e naturalmente la gente lo sa, se li usi personalmente, lo capisce bene. È chiaro che la tentazione all'insulto aumenta quando sanno che sei tu, perché io poi sono una un po' una persona diretta, una che l'affronta le cose. Io rispondo rispondo sempre. Tanti miei amici, anche miei collaboratori, dicono: ah, ma tu non devi rispondere agli insulti. A volte, per esempio, su Twitter, quando sono proprio molto pesanti, e ne ho avuti pesanti sulla mia omosessualità, come puoi immaginare, c'è un repertorio bello vasto, ma io li ritwitto, per esempio, e lì è molto interessante, perché quando li ritwitti le persone li isolano, no? Però c'è, è sempre in, per esempio, ho notato che prima su Facebook era molto molto frequente, poi ho cominciato a lavorare molto su Twitter, e la cosa era meno violenta. Adesso, per esempio, la violenza si è spostata molto molto su Twitter, cioè è diventato un po' come Facebook. Hai notato un aumento da questo lato, quindi? Io l'ho trovato in aumento, sì, l'ho trovata molto in aumento. Sempre insulti decontestualizzati, no? In cui tu parli di una cosa e ti vomitano addosso tutto il disprezzo verso la classe politica, che è una cosa, ovviamente, per gente come me, che non sono, diciamo, sono lontana anni luce da Fiorito, è un po' faticoso, no? Sono una persona per bene, trasparente, sono io che sto sui social network, anche perché penso che se non ci sei tu non ha senso, se non ci sei personalmente, e per me sono stati un grandissimo strumento di comunicazione con le persone, e lo sono tantissimo nel mio lavoro. Però questa cosa della violenza è molto faticosa, anche perché non c'è dialogo, no? Se tu fai schifo, buonasera. Qualcosa in particolare che ti ricordi, che ti viene in mente? Ma guarda, sì, insomma, sull'omosessualità, sul mio essere lesbica, sono molto, sono i più, più frequenti, anche i più pesanti. Poi, ma per esempio, io stamattina ho sollevato una cosa su Twitter sul fatto che i giornalisti, smettetela di parlare di delitto passionale, questo è successo proprio stamattina, smettetela di parlare di delitto passionale quando gli uomini ammazzano le donne, no? E c'è stato un ragazzo che c'ha il coso di Matteo Renzi, diciamo, adesso, che ha cominciato a dire che a parlare contro le donne, col fatto che noi siamo vittimiste, che vogliamo la parità, invece tutta una cosa complicata, decontestualizzata proprio da quella cosa, e continuamente provocava. Io cercavo di riportarlo verso l'argomento, ma non sono riuscita. Benissimo, e solo un'ultima domanda, al di là di, come dire, di Twitter, del quale ci hai parlato, no? Ci hai detto che hai trovato un incremento, no? Una sorta di passaggio da Facebook a Twitter, sì. Hai l'impressione che nel complesso questo modo di affrontare il rapporto con i politici in genere sia cambiato negli ultimi anni, intendo anche in termini di linguaggio, insomma, brutalmente? Sicuramente c'è, non ci dimentichiamo che lì siamo nell'ordine di uno che sta dietro la tastiera. Non lo so quanto poi nel rapporto diretto si userebbe lo stesso linguaggio, ma questo non perché c'è la mediazione c'è la mediazione della tastiera, cioè del computer. Questa è una mediazione che ti permette di essere più libero, no? Anche per quel minimo di educazione, diciamo, che ti hanno insegnato da piccolo. No, non perché tu non debba dire delle cose anche dure. Sicuramente io sono una che accetta qualsiasi confronto con tutti, sono stata anche accusata di questo ma appunto lì non c'è la mediazione del corpo, che quella è importante. Però sì, nel senso che è cambiato moltissimo il rapporto con i politici. Io devo dirti che però con alcuni grillini, per esempio, con uno in particolare, c'ho un bellissimo rapporto, siamo molto diversi, però c'è un rapporto di grande rispetto, cioè con alcuni poi, no, che invece ci vanno giù duri, per esempio io sono riuscita a costruire dei rapporti di rispetto reciproco. E questo, qualche volta uno ce la fa.